17. Il vecchio Azur viveva all'ultimo piano del reparto compositori, un magazzino cadente con vecchi schedari, collezioni di giornali sbranati dalle tarme, pile di dischi, migliaia di fotografie che l'umidità aveva cementato in una fetida pasta sfoglia. C'erano anche montagne di bicchierini di carta usati, una vecchia macchina espresso in funzione e un vecchio schermo con un proiettore Klastiak. Tutta la stanza era sporca e polverosa, ad eccezione di un grande tavolo da riunioni, dove stava, ben lucidata, una collezione di modellini di aereo. Erano gli aerei caduti negli ultimi 30 anni. Vicino a ogni aereo c'era una scatola di diapositive. Erano le foto dei passeggeri morti. Azur le aveva quasi tutte. Si faceva dare le copie dagli archivi. Poi le scambiava con l'unico collezionista al mondo oltre lui, un compositore giapponese. Da poco aveva avuto i due passeggeri mancanti del DC-9 caduto in Indonesia nel 1976. In cambio, aveva dato un pilota russo caduto sugli Urali. Quando Atarva entrò, Azur non sembrò contento di vederlo. Se c'era qualcuno più misantropo di Atarva in quel reparto, era proprio il vecchio. Non usciva dall'ufficio da 20 anni. Componeva su un computer di modello antiquato che riparava lui stesso con gocce di piombo, graffette e loctite. Ma era un artista e poteva insegnare a tutti. Meno che ad Atarva, naturalmente. Non alzò nemmeno gli occhi dal suo lavoro quando sentì i passi del collega. Stava componendo le false biografie dei premiati postumi. Ritoccava qualche parola nelle interviste, inventava qualche dato, pochi tocchi da maestro. Ogni ambiguità o incertezza di una vita veniva appianata e avviata verso il suo nascosto senso, quello di far parte, pur nelle diversità, dello spirito del tempo. «Cristo, ci risiamo!» disse Azur. Il computer s'era spento di colpo. «Il solito calo ricorrente!» disse Atarva. «Il solito sabotaggio, vorrei dire!» ghignò il vecchio, accendendo una pipa di nitrato di amile e diventando tutto rosso per la vasodilatazione. «Lo sai bene anche tu, Atarva. Sei una carogna, ma non sei uno stupido. I ribelli sono entrati in tutti i nostri circuiti. Stanno rosicchiando il nostro bel sistema.» «Di cosa parli?» borbottò Atarva. «Non sei venuto per questo?» rise Azur. «Sei venuto per un tè? Per una visita di cortesia?» Atarva non replicò. Andò alla finestra. Era tanto che non guardava il mondo. Giù nel suo sotterraneo non c'erano finestre. Gli sembrò che la città fosse diventata più buia e incolore. C'erano delle nuove costruzioni altissime. C'erano incendi e fumo. Nel cielo volavano grandi elicotteri trielica. Il fiume era nero e brillava in modo sinistro sotto il primo sole. Sì, era l'alba. «Ho bisogno di aiuto», disse Atarva. Azur avvertì un sorprendente accento umano nelle parole del gelido Atarva, l'uomo sotto zero, come veniva chiamato nel reparto. «Cosa ti succede?» chiese. «Io credo che loro, cioè i ribelli, per qualche misteriosa ragione stiano inserendo dei pezzi di realtà, realtà primaria, voglio dire, e fin qui niente di male, anche noi li utilizziamo per comporre. Nella guerra Shama io uso molti sette ologrammi, ma anche brani della guerra israeliana, del Vietnam, della guerra Iran-Iraq. Però è tutto materiale controllato. Invece il loro materiale è strano.» «Strano in che senso?» «Non saprei dirlo. Come sai, a me non piace la realtà primaria. Non esco di qui da anni. Morirei se dovessi passeggiare in città o incontrare qualcuno. Ma la realtà sullo schermo la sopporto bene. Questa volta però c'è qualcosa di diverso. Usano materiali che hanno qualche strano potere, qualcosa che non è né realtà primaria né composta.» «E tu ne hai paura?» disse Azur. «È così. Ho già sentito parlare di qualcosa di simile. La sindrome di Murphy. C'era un altro compositore anni fa che aveva i tuoi sintomi.» «Parlami di Baldini», disse d'improvviso Atarva. Azur sorrise in modo strano. Aveva la bocca sdentata e bruciata dalla droga. Tirò una lunga boccata dalla pipa. «Baldini aveva i tuoi stessi problemi. Mi parlò anche lui di un filmato che lo turbava. Mi chiese i codici di accesso all'archivio zero. Non glieli diedi.» «Perché?» «Era troppo sconvolto. L'archivio zero contiene roba pericolosa se non hai la testa a posto. Però qualcosa ha continuato a tormentarlo, al punto che si è ucciso.» «Anch'io voglio entrare nell'archivio zero», disse Atarva. «Solo così potrò sapere cosa rappresenta veramente quel filmato. Là c'è l'originale. Aiutami, Azzur. Tu sei ancora più turbato di Baldini, disse Azzur. E poi, chi ti dice che io abbia quei codici? Atarva, di colpo, tirò fuori qualcosa dal pellicciotto. Sembrava una medusa morta, una gelatina giallastra dentro un vaso di vetro. Gli occhi del vecchio si illuminarono. Chi te l'ha dato? Disse. Un amico della sperimentazione chimica. Gli ho fatto un favore. Ho ricomposto la notizia dell'esplosione del suo laboratorio, cancellando un paio di morti. Sono più di 200 grammi. Potresti andarci avanti 2 anni con questo. Il vecchio guardò la gelatina. La sfiorò con le dita. Era tiepida e profumava di bosco. Ho provato il Soan una sola volta, disse Azzur, ed è veramente la droga migliore. Non mi sorprende che non la mettano in commercio. Rovinerebbe il mercato. Il mio amico dice che è 100 volte più forte della morfina. Non per niente la chiamano Soan, solo andata. Il consorzio Banco Mafia ha deciso che la metterà in vendita solo tra 10 anni, quando gli stock attuali di droga saranno esauriti. Ma tu puoi averla adesso, 200 grammi. 2 anni, 2 anni senza dolore, disse il vecchio guardando nel vuoto. 2 anni di felicità, gli ultimi. Oggi potrebbe essere l'ultimo brutto giorno della tua vita, Azzur, disse Atarva. Ehi, una goccia alla settimana basta, vero? Non finirà troppo presto. 2 anni, disse Atarva, sul mio onore. Il vecchio prese il vaso di vetro tra le mani, posò la pipa, sospirò. Quanto tempo ho per decidere? 3 secondi, disse Atarva. Bene, disse Azzur, mettiti al computer vicino a me. Atarva si sedette, eccitatissimo. Si slacciò anche il cappotto di pelo, rivelando uno strato geologico di maglioni. «Sono pronto», disse. «Prima di cominciare», disse Azzur, «ti devo avvertire che non abbiamo a che fare con computer normali. I computer segreti hanno assimilato il linguaggio dei loro utenti, cioè i servizi segreti e i militari. Sono reticenti, smemorati, e possono sembrare a volte degli autentici coglioni. Ma non farti ingannare, sanno tutto». «Come hai fatto a trovare la strada per l'archivio zero?» Stavo componendo un servizio sull'Audium Gaudium, il servizio gradimento dei programmi TVL. Consultando la lista dei campionamenti, scoprì la famiglia Apollo. E che aveva di speciale? Niente di speciale, tutto di normale. Ma la sua normalità era mostruosa. Questa famiglia dava sempre ai programmi un voto di gradimento che era la media esatta del gradimento di tutte le altre famiglie Audium Gaudium. Cioè, se la media di 30.000 famiglie era 6,7, la famiglia Apollo votava 6,7. Controllai. Per 10 anni era sempre stato così. Allora sospettai. Era impossibile che nessuno avesse notato questa perfetta medietà, grazie alla quale si sarebbe potuto abolire l'intero sistema Audium Gaudium. Sarebbe bastato consultare la famiglia Apollo. Ma nessuno aveva mai indagato su questo buco nero che ingoiava ogni extrasistola di anormalità. Questa bonaccia dell'intelligenza, questo conformismo genetico. Perché? Lo scoprii presto. Non esisteva nessuna famiglia Apollo. Sotto questo nome e indirizzo si nascondevano i dati dell'archivio zero. Ora te lo mostrerò. Operatore Azzur a computer centrale. Chiedo contatto con sistema rilevazioni segrete Audium Gaudium. Concesso. Vorrei parlare con la famiglia Apollo. Non abbiamo nessuna famiglia con questo nome. Ripeto, chiedo di entrare in contatto con la famiglia Pollo. In effetti c'era una famiglia Pollo nella lista, ma non ricordo bene, perché il giorno che inserirono il dato io ero momentaneamente spento, poiché l'operatore aveva versato del caffè sulla mia tastiera. Non credibile, computer centrale. Il caffè non danneggia un computer schermato. Forse effettivamente non era quella la ragione. Ero fermo perché c'era stato un blackout. Non ci fu nessun blackout quel giorno, ho controllato. Ripeto, voglio parlare con la famiglia Pollo. Famiglia Pollo in linea. Chiedo l'indirizzo della famiglia Pollo. Non ricordo bene. Mi sembra si trovi tra Di Canca e Città 3, oppure tra Città 3 e il ghetto, oppure in quella strada in salita che da Tan Rog. Generale, la smetta di prendermi in giro e risponda subito. Indirizzo famiglia Pollo. Magazzino 128, zona dei palazzi abbandonati. Ecco il nostro indirizzo, sorrise Azzur. Adesso puoi continuare da solo. Chiedo il codice di accesso ai reparti del magazzino 128. Non ricordo. Gli chieda cosa contiene il magazzino 128, mio giovane amico, disse Azzurra. Richiedo elenco materiali in giacenza magazzino 128. Richiesta accolta. 6 dromo dinamo Tupolev per il riscaldamento dei geotropi. 4 casse di leprifugo per allarmi nel circuito lemnasiano. 16.000 litri di riftoleina per la lubrificazione dei gamma haut incoativi del fusiometro idraulico. Una scavatrice assonometrica per prelievi di balma. Una centralina di controllo termico del locale con escursione da 100 a meno 100. Noti niente di strano a Tarva? Sì, il controllo della temperatura. Perché mai dovrebbe essere necessario riscaldare o raffreddare cose che non esistono? Esatto, disse Azur. Sei a un passo dalla felicità. Adesso agisci su quel dato. Temperatura centralina a grado zero. Ripeto, grado zero, disse Tarva. Mossa celestiale, disse Azur, con voce stridula. Grado zero raggiunto. Codici di entrata, Macon, Grampen, Le Retri, Cajou. Per entrata porta dell'inferno, necessario codice supplementare. Accidenti! E adesso? Adesso cosa? Chiese Azzurra. Ho i codici di accesso fino alla porta dello zero, ma non ho il codice finale. Dammelo tu! Perché dovrei darti la porta dell'inferno quando abito già in paradiso? Atarva si voltò. Avrebbe dovuto capirlo dalle parole che Azzur diceva da qualche minuto. Il vecchio non aveva resistito. Si era subito drogato con una goccia di Soan. Ora stava sdraiato per terra con un'espressione beata sul volto, sgambettando come un neonato. «Il codice, Azzur!» gridò Tarva scuotendolo. «Il codice finale!» «Hai mai raccolto castagne dopo che è piovuto, Tarva?» «Grosse, lucide castagne. Quando ero piccolo, io andavo spesso a raccogliere le castagne. Il codice o ti ammazzo, Azzur!» «E credi che me ne importi? Io sono felice per sempre, Tarva. Niente può ferirmi ormai. Dimmi come devo continuare. Non mi ha mai interessato trovare la via dello zero, ma un altro compositore l'ha trovata. Non ti sarà difficile scoprire nella memoria delle operazioni chi altro sia interessato alla famiglia Pollo. Lei è stanca di sedere vicino alla sorella sulla panca. E ora, addio. La Tarva agguantò il vecchio per il collo, poi lo lasciò andare. Non ne avrebbe cavato più nulla di sensato. Era nelle braccia del Soan, per sempre. Ammazzarlo sarebbe stato inutile. Non avrebbe più svelato a nessuno il segreto. Ho 4 codici, pensò, e so come arrivare all'archivio. Qualcun altro sa come entrarci. Devo solo aspettare.